Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Una canzone d'amore in diretta qui su Radio Stonata, Radio Eco Sud. E mi diceva fuori onda la mia Elenuccia che sono romantico con questa canzone, è vero Elena? Sì, un'accoglienza super romantica. Ciao Beppe, ciao a tutti. Mi odierà Elena perché l'ho buttata così in diretta senza di linea. Gli ho detto vabbè, andiamo. No, non più del solito Beppe. Ci sono abituata, quindi non ti odio più del solito. Okay. Allora, con Elena abbiamo fatto un esperimento, ve l'ho raccontato velocemente in apertura di trasmissione, però glielo dico così lo sa pure Elena che esperimento abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pubblicato sulle nostre pagine social, ed Elena ha fatto anche un bellissimo video in Instagram, quindi andatevelo a vedere, dove lei si sottopone... No, per fortuna è già scaduto, Beppe, non si può più vedere, e non l'ho salvato... Che sfiga, no, è stata veramente solo per te, ma queste cose proprio lo sai che non amo farle, ci metto la faccia proprio poco spesso. No dai, non ci posso credere, l'ha cancellato, va bene, ce ne faremo una ragione ragazzi. Comunque vi stavo raccontando, quindi sono arrivate un po' di domande, diciamo che sono un bel po' di domande, speriamo di riuscirle a sviscerare tutte. Tra cui c'è qualche domanda anche del sottoscritto, però non vi dico qual è. E niente, secondo me lo capisco io, tanto le tue sono sempre quelle difficili, quelle che mi mettono in difficoltà. Tu pensi che siano quelle? Ma insomma, se mi chiedi di qualche architettura strana, so che c'è il tuo zampino. Ah, ok. No, lo sai che non ci avevo pensato alla domanda di architettura, cavolo, questa c'è, la faccio in diretta, così... No, ti prego. Sulle costruzioni, ricordi quella volta le costruzioni, vabbè, lasciamo stare, comunque, io direi di partire con la prima domanda, cosa ne pensi tu? Sì, va bene, partiamo. Aspetta che dobbiamo trovare i fogli, perché qua i fogli li perdiamo, perché siamo bravissimi anche a perdere i fogli, ed è bello questo della diretta. Però partiamo con questa domanda: c'è un viaggio che rifaresti? Ah, subito una domanda importante, direi. Allora, partiamo dal fatto che tendenzialmente io cerco di non tornare mai nello stesso posto, ma questo semplicemente perché penso che sì, di mondo ne ho visitato tanto per mia fortuna, però tendo a non tornare perché c'è ancora tantissimo mondo che ho io da vedere, e penso a quante volte sono rimasta a bocca aperta e quante altre volte potrebbe ancora succedermi, per cui tendo sempre a pianificare viaggi in posti non ancora visti. Se però in realtà a possibilità infinite tornerei in tantissimi posti, e forse non c'è un posto nello specifico, non c'è un paese nello specifico, ci sono tanti posti sparsi per il mondo. Per esempio tornerei a vedere il Taj Mahal in India, tornerei in Argentina per rivedere la maestosità del Perito Moreno, tornerei in Perù per vedere il Machu Picchu e per arrampicarmi sulla Rainbow Mountain, tornerei in Botswana e in Namibia per fare quei safari pazzeschi, e in Botswana soprattutto per rivedere quel cielo stellato, quello sicuramente, ritornerei a vedere le cascate Vittoria e tornerei anche sempre in Colombia per vivermi una settimana rilassata tra le colline del caffè colombiane, che sono meravigliose. Poi, come tu sai, io sono Langarola, quindi ho una passione per le colline. Scusami un attimo che ti interrompo. Io mi ricordo una fase del tuo viaggio in Colombia che io ero che stavo guardando la mia prima serie di Pablo Escobar, e quindi raffrontavo questi ricordi. me lo ricordo come in quell'intervista dove tu avevi una visione del tutto, diciamo, contaminata dalla serie di Narcos, e quindi tu vedevi solo narcotraffico in Colombia, e io ti ho raccontato una realtà completamente diversa di quella che è la Colombia oggi. Sì, sì, me lo ricordo come. Comunque, cos'altro? Tornerei in Uganda per passare una giornata con i gorilla, come no, anche quello lo farei. E poi in ultimo, perché no, un bagno nelle acque della Polinesia o del Belize per fare quello snorkeling magnifico, nuotare in mezzo agli squali, queste cose qua. Poi veramente sono infinite le cose che rifarei, però forse più che viaggi interi prenderei dei singoli momenti dei viaggi. Poi, Elena, mi dispiace, ma ci è arrivata una domanda e ci hanno già interrotto. E poi mi scrivono: dove non tornerebbe mai? Quindi diamo la precedenza alle domande in diretta. Bello, mi piace. Dove non tornerebbe mai? Se c'è un posto dove non torneresti mai? Allora, anche questa è una bella domanda. Ti abbiamo messo in difficoltà, dai. No, non sono in difficoltà. Ci sono mai dire mai nella vita. Però, come tu sai, l'anno scorso ho vissuto questa brutta esperienza in Etiopia. Mi hai detto il pensiero, l'ho pensato quando ti ho posto la domanda. Penso che chiunque ci ascolti da un po' di tempo, abbia sentito la mia intervista su quel viaggio, si aspettasse questa mia risposta. Per cui non ritornerei nell'Omo Valley in Etiopia, uno per la pericolosità, a meno che non prendano provvedimenti in merito, che questo potrebbe anche accadere, sia per la pericolosità sia per quello che avevo raccontato, ovvero per questa disumanizzazione delle tribù locali utilizzate solo per il turismo e ormai mercificate, quindi questo brutto sviluppo del turismo nell'Omo Valley. Non posso parlare del resto dell'Etiopia, che so che è un paese meraviglioso e che in tantissimi amano. Però poi devo dirti un'altra cosa: io non ho il viaggio che io ho amato di meno, Etiopia a parte, dove c'è stato questo episodio molto sgradevole, ma anche qui credo di andare controcorrente, ma io non tornerei in Thailandia, e non ci tornerei perché è stato uno dei viaggi che mi ha appassionata di meno, l'ho trovato troppo turistico, e a me quando viaggio piace tanto capire la personalità di un paese, perché poi ogni paese ha una personalità unica. Ecco, in Thailandia ho fatto fatica a trovarlo, probabilmente proprio perché è così tanto turistica, si è un po' snaturalizzata e non ho capito l'essenza di questo paese. Diciamo che non è di sicuro uno dei viaggi che rifarei. Elena, in due minuti, dai, un viaggio dove hai lasciato, come dicono a Napoli, un pezzo di cuore. Ah, anche qui io il cuore l'ho lasciato praticamente dappertutto, quindi dovrei andare a raccoglierlo ovunque per ricostruirlo, il mio cuore. Ma c'è un pezzo, un viaggio, Elena, dove dici: cavolo, io la... Non lo so. Allora, ti dico due viaggi, me ne gioco due, dai, non riesco a dirtene uno solo, e per due motivazioni diverse. C'è il primo viaggio, che probabilmente la prima volta non si scorda mai, ed è per questo che lo cito, ed è il viaggio in Brasile, perché il Brasile è stato il mio primo viaggio zaino in spalla, completamente organizzato in fai da te, dove probabilmente ho scoperto proprio la mia vera anima da viaggiatrice. Ho passato un mese in questo paese straordinario, e quindi è stata la mia prima esperienza da quella Elena viaggiatrice che poi ha continuato a viaggiare per tutti questi, per i 12 anni a seguire. Quindi il Brasile avrà sempre un pezzo speciale nel mio cuore. E poi però ti dico che l'altro viaggio molto molto speciale per me è stata la Colombia, proprio perché forse è stato il primo paese in cui ho pensato: io qua ci verrei a vivere. Che non è così scontato. Si possono vedere posti bellissimi, ma da lì a dire io qui ci vivrei, ce ne passa. Ecco, io in Colombia forse ci vivrei. Quindi Elena, sai che facciamo noi? Ci andiamo a fare una pausa pubblicitaria, aspettiamo le altre domande e andiamo, ok? Va bene. Il viaggio. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Achille Lauro in diretta qui su Radio Stonata e Radio Eco Sud con Me Ne Frego. Siamo ritornati nuovamente in diretta, sempre in compagnia di Elena Nebbiolo per nonsoloturisti.it. E con lei stiamo un po' raccontando, cercando anche di stare seguendo le vostre domande che ci sono pervenute in tantissime durante la settimana. Abbiamo, con Elena abbiamo stilato una scaletta di domande. Siamo partite già con le prime tre, anzi sì, due, però poi ce n'è arrivata una in diretta, quindi tre. Non ho un bravissimo, sai fare i conti, Beppe? Elena, ci sei? Io sì, ci sono, mentre tu fai i tuoi conti, io sono qua che ti ascolto. Ah, okay. No, questa era una domanda che più volte anche io durante le dirette faccio a voi di Non Solo Turisti, ed era una domanda che spesso ho affrontato anche con te, ma mi è piaciuta anche affrontarla perché avevo un modo suo di raccontarmi questa cosa, Flavio Lagia, e con te quindi te la voglio rifare, Elena, proprio perché ci è arrivata anche questa. Qual è il tuo bagaglio tipo, Elena? Qual è il mio bagaglio tipo? Allora, in realtà dipende dal viaggio, non esiste proprio un bagaglio tipo. Tendenzialmente io sono una viaggiatrice zaino in spalla, per cui io prediligo lo zaino al trolley, figuriamoci poi le valigie rigide che non si adattano alla maggior parte dei viaggi che io faccio. Prediligo lo zaino per due motivi: uno, perché ci si può trovare in situazioni tipo, non lo so, in Mozambico, mi è capitato di dover camminare un'ora nel deserto, e chiaramente tra trascinare un trolley o avere uno zaino in spalla cambia, quindi lo trovo più comodo, più flessibile. E poi perché lo zaino te lo devi portare in spalla, quindi in un certo senso ti obbliga ad essere molto diligente nel fare la valigia, a portare solo le cose veramente necessarie. Quindi io, viaggiando zaino in spalla, ho imparato veramente a farmi una valigia con il minimo indispensabile. Tendenzialmente, tra l'altro, come tante altre persone, per lavoro devo sempre vestirmi in un certo modo, nella vita di tutti i giorni, tacchi, per cui in viaggio mi piace proprio abbandonare tutti quelli che sono i miei abiti quotidiani, abbigliamento sportivo. Una cosa che non manca mai nel mio bagaglio sono pantaloni tecnici da trekking, comunque da escursione, quelli dove con la cerniera si può togliere una parte dei pantaloni e fa sia pantalone lungo che pantalone corto. Uno, perché di solito è materiale tecnico, li lavi velocemente, si asciugano super velocemente, e poi perché fanno sia da pantalone corto che da pantalone lungo. Per lo più scarpe da trekking, se si va al mare infradito e non trovo necessario niente di elegante, con un toppino e un paio di pantaloni comodi, sì, si può anche essere eleganti per il tipo di viaggio che faccio io. Poi, vabbè, oltre allo zaino in spalla, naturalmente, viaggi da solo oppure viaggi in compagnia, Elena? Allora, io tendenzialmente viaggio in compagnia perché ho la fortuna di avere tanti amici appassionati come me di viaggi, per cui siamo già partiti anche in 10, 12 o viaggi più piccoli dove siamo andati soltanto in 3 o 4, però qualche folle che mi segue nei miei viaggi lo trovo sempre. Ho fatto però anche due viaggi da sola, questo tu Beppe lo sai, ma magari chi ci ascolta non sa, che sono stati due viaggi con Emergency, quindi sia quando sono stata in Sierra Leone che in Sudan, quelle sono esperienze che ho fatto in solitaria, nel senso che sono partita io da sola, poi è chiaro che là c'era tutto lo staff di emergency, però quella è stata proprio una mia scelta, quella di partire da sola, perché era un'esperienza che dovevo fare io, secondo me molto intima. Mm-hmm. Poi ci sono state persone che non hai mai dimenticato di un tuo viaggio, non lo so, c'hai una delle persone che ti sei portata dentro di un viaggio? Secondo me questa domanda è tua, non lo so perché, ma mi sembra un po' nel tuo stile questa, anche se non stiamo parlando di architettura, secondo me qua c'è il tuo zampino, perché hai un cuore grande. Quindi era diversa la domanda, però va bene. No, è una bella domanda. Allora, anche qui devo ricollegarmi ai due viaggi fatti con Emergency, sicuramente, perché i due viaggi fatti in Sierra Leone e in Sudan mi hanno permesso di entrare in contatto con persone con storie molto, molto particolari, molto difficili, e anche di poterle frequentare per più giorni, per cui di stringere un rapporto più forte. In particolare io non potrò mai dimenticare Albert e James, che sono due bambini che ho conosciuto in Sierra Leone, uno con il diabete, uno con una disfunzione cardiaca. Soprattutto nel caso di James, era quel bambino che, se ti ricordi, si era costruito un mini frigorifero da solo, con i propri mezzi, con robe raccattate in giro, perché lui viveva in una casa senza frigorifero, e per tenere l'insulina si era adoperato inventandosi questo mini frigorifero che aveva portato in ospedale con tanta soddisfazione e con uno stupore enorme dei medici. Me lo ricordo. Loro sicuramente sono due persone, cioè, che non potrò dimenticare mai dei miei viaggi. Però ce n'è ancora un'altra, che è un taxista iraniano. Il taxista iraniano che a Sherat mi accompagnò a vedere una zona della città per la quale io dovevo entrare per vedere questo tempio, e dovevo lasciare la macchina fotografica e tutto quanto fuori, ma non avevo un posto dove lasciarli. Lui mi disse: lasciali a me. E io in nessun paese del mondo avrei mai lasciato la mia attrezzatura fotografica a un taxista che poteva prendere il taxi, scappare e andare via. E invece lui ci aspettò per un'ora, mi aspettò con lo zaino e non mi fece nemmeno pagare la corsa di ritorno, perché ha detto che io e la mia amica eravamo troppo simpatiche e che era stato bello stare in nostra compagnia. Per cui, vabbè, questo si collega poi al mio amore per il popolo iraniano. Però, ecco, quel taxista no, non credo che lo dimenticherò mai. Io sai che ti dico che ci andiamo ad ascoltare un altro brano, perché è arrivata una domanda, ne vorrei parlare con te un attimo fuori onda e poi la facciamo in diretta con tutti i nostri radioascoltatori. Che va dici? Bene, a dopo. Ok, a tra poco qui sulla Gestonata, e adesso arrivano il Negramaro. Amami, cantano i Negramaro qui su Radio Stonata e Radio Cosud. Per uno come me, sì, questa cosa forse per uno come me, non lo so, vabbè, sto scherzando. Anche ritorniamo seri, anzi, ritorniamo a parlare di viaggi. Lo facciamo con Elena Biolo su Radio Stonata e Radio Ecosud. Elena, fuori onda, ti ho fatto vedere anche la domanda che è arrivata, e la domanda dice se sei stata mai in Canada, e precisamente in una città che si chiama Tuberdy, se non sbaglio. Dimmi. Sì, allora, la città si chiama Two Burgers e so benissimo da chi è arrivata questa domanda, quindi saluto Gaia in diretta. Ci sei stata? Che mi fa questa domanda per un motivo molto particolare, per cui le rispondo: io non ci sono mai stata, Two Burgers, ma sono sicura che ci andrà presto lei, e se le piacerà ci tornerò con lei, perché potrebbe essere un viaggio importante quello a Two Burgers, per quanto credo che sia un paesino completamente dimenticato e dove soprattutto le temperature sono rigidissime in inverno. Però con lei potrei farlo questo viaggio. Quindi ciao Gaia e grazie per la domanda. Invece con le domande che c'erano già arrivate durante questa settimana, qual è stato per te il miglior viaggio qualità-prezzo? Ah, allora, il miglior viaggio qualità-prezzo, qui mi ricollego al viaggio in Iran, allora, perché l'Iran mi ha veramente stupita tantissimo, mi ha stupita per la bellezza, mi ha stupita per il calore delle persone, me ne avevano parlato bene in tanti, ma io non immaginavo che mi piacesse così tanto sotto tutti i punti di vista, non di meno quello economico, perché ho speso pochissimo in quel viaggio, si trovano anche dei voli molto economici per raggiungerlo, per cui io ti dico, con all'incirca 1000 euro io ho fatto 2 settimane con driver privato, tra l'altro, con guida privata in albergo, in alberghi di media categoria, ma medio-alta categoria, viaggio aereo, insomma tutto incluso, non mi sono aggirata sui 1000 euro, quindi secondo me rapporto qualità-prezzo, uno dei viaggi migliori in assoluto è sicuramente quello in Iran. Poi un'altra domanda riguarda invece il cibo, Elena. Il cibo? Un po', perché tu lo sai che io sul cibo non è che sono ferratissima, perché sperimento, ma non è proprio il mio punto forte, tanto è vero che tantissimi quando scrivono di viaggi scrivono interi articoli sui piatti, ecco, non è la mia passione più grande, però devo dire che qualcosa l'ho sperimentato anch'io. Sentiamo un po' qual è la domanda sul cibo. Qual è il piatto più strano che hai mangiato in viaggio? Allora, il piatto, qua è facile, direi che è facile perché l'ho fatto per una sfida in realtà, perché il mio compagno di viaggio non credeva che ne sarei stata capace, ma ho mangiato le cavallette in Thailandia. Erano buone? Quindi, ma ti dirò, in realtà è proprio solo più una cosa psicologica, il gusto non era nemmeno così male. Poi erano, mi sembra, fritti, non lo so, perché l'abbiamo presa in una bancarella per strada, mi sembravano fritte, non te lo saprei dire di preciso, ma comunque si poteva affrontare, il gusto non era così pessimo. Ma lo puoi associare a un gusto di un cibo, cioè per farci un po' l'idea, oppure non riesco proprio a associartelo a nessun altro cibo che io abbia assaggiato in precedenza, per cui però non era un gusto fastidioso. Per noi è veramente più, siccome la cavalletta è intera, è la questione psicologica che è difficile da superare, però poi penso che in termini di gusto piacerebbe anche a tante persone. E invece ritorniamo proprio a parlare dell'organizzazione del viaggio, ci sono viaggi più facili da organizzare, nel senso fai da te, cioè, ne hai avuti? Allora, questa è una domanda che mi arriva anche spesso quando scrivo articoli o sulla mia pagina Facebook o Instagram, mi chiedono se ci sono dei viaggi più o meno facili da organizzare, o magari persone che vogliono iniziare a viaggiare in fai da te mi chiedono da dove posso partire. Secondo me ci sono più che altro delle aree del mondo dove è molto più facile organizzare viaggi in fai da te, e parlo soprattutto dell'Asia, riguardo alla mia esperienza, e del Sud America. Questo perché innanzitutto si può reperire tantissimo materiale online, quindi tantissime persone hanno viaggiato sia in Asia che in Sud America e sono quindi ed è quindi più facile trovare informazioni per studiarsi un itinerario o per capire come muoversi. In più è più facile trovare delle linee ben servite di pullman, di bus, per organizzare i propri spostamenti, anche questo magari già anche online, comprando anticipatamente biglietti dei bus, dei pullman, ed è anche facile, siccome sono paesi che hanno tantissime strutture ricettive, riuscire a trovare anche una sistemazione all'ultimo momento. Quindi se i piani, se non ci si è riusciti a spostare secondo la propria tabella di marcia, non è difficile improvvisare e trovare delle sistemazioni, in particolare anche in Centro America. In particolare io ricordo dei viaggi molto facili da organizzare in Fai da te sia in Brasile, in Messico, in Guatemala è stato tutto molto semplice, ma anche in Thailandia, in Cambogia, nelle Filippine o in Sri Lanka. Sono tutti paesi in cui, certo, bisogna mettersi un po' di impegno, mettersi magari mesi prima, ma questo più che altro per studiare se si ha un tempo limitato, perché poi se si hanno mesi interi per stare in giro per il mondo si può improvvisare day by day. Se si hanno le tre settimane canoniche, è bene informarsi bene per capire come muoversi, ma soprattutto che cosa non perdersi. Mm-hmm. Per cui io suggerisco sempre, non perché io scrivo un blog, perché sembra una cosa un po' interessata la mia, ma in realtà il mio suggerimento è leggere tante informazioni in rete di altri viaggiatori per reperire tutte le informazioni che possono servire. Ok, io ti interrompo di nuovo, ci andiamo ad ascoltare un brano, facciamo una piccola pausa, un sorso d'acqua e poi ritorniamo di nuovo in diretta con te, Elena, qui su Radio Stonata e Radio Eco Sud. A dopo. Ritorniamo nuovamente in diretta qui su Radio Eco Sud e Radio Stonata. Questo è Il Viaggio, il programma in onda tutti i venerdì dalle ore 19 alle ore 20. Stavo facendo il vecchio orario, comunque vabbè, lasciatemi stare. Siamo in compagnia di... Trasmetti di venerdì, Beppe. Vabbè, no, lasciamo stare, guarda, infatti hai ragione. Una domanda è arrivata subito mentre c'era la canzone in onda, ed è questa: qual è l'animale più curioso che hai visto in viaggio, Elena? L'animale più curioso, allora il più curioso che ho visto per me è stato l'armadillo, che ho visto in Argentina, precisamente nella penisola del Valdez. Noi avevamo un fuoristrada, avevamo affittato un fuoristrada, e a un certo punto ci ha tagliato la strada questo animale così strano, perché con questa corazza, insomma, non so se chi ci ascolta ha presente com'è fatto un armadillo, una sorta di castoro, ma con una corazza intorno. Ci ha attraversato la strada questo animale e siamo subito scesi dalla macchina per capire di che cosa si trattasse, per poi scoprire, perché poi ne abbiamo visto un secondo sempre lì, che si trattava di un armadillo, che io ammetto nemmeno sapevo esistesse, carinissimo peraltro, ma che era molto frequente avvistare lì nella penisola del Valdez in Argentina. Poi ci sono tantissimi animali, ecco, forse no, non è l'animale più curioso che ho visto, però prima citavo il mio viaggio in Uganda, i gorilla sono degli animali che, pertanto che appunto si conoscano, viverli dal vivo è una cosa pazzesca. Anche gli orango quest'anno a Sumatra, devo dire che sono stati un bello spettacolo, però vivere delle ore in mezzo a questa famiglia di gorilla, poterli osservare da così vicino, è stata una cosa davvero davvero emozionante, come anche gli orango quest'estate nella foresta di Sumatra. Mm-hmm. Poi nei safari, come tu ben sai, sono tantissimi gli animali, che qui non, ecco, l'animale più curioso è sicuramente l'armadillo, però vedere leoni, ghepardi, leopardi, rinoceronti è un'esperienza pazzesca che si può vivere solo facendo un safari in Africa, che è una cosa che io consiglio a tutti di fare almeno una volta nella vita. Elena, poi è arrivata, perché adesso le domande arrivano, ne arrivano pure tante. Se c'è, questa volta riguarda il mare, precisamente il più bello che hai trovato in uno dei tuoi viaggi. Qual è il mare più bello che hai trovato in uno dei tuoi viaggi? Il mare più bello, allora, il mare più bello, io ne devo citare almeno tre, e due sono abbastanza scontati, nel senso che cito Polinesia e Maldive, perché in entrambi i casi ho trovato un mare davvero stratosferico, e io non faccio immersioni, anche se in Polinesia ho fatto il battesimo dell'immersione, quindi ho fatto l'unica immersione della mia vita, l'ho fatta in Polinesia, e quello che c'è sotto il mare, sia nei fondali, sia appunto i fondali, sia a livello di pesci, è veramente una cosa fantastica. Ricordo per esempio alle Maldive di aver nuotato in mezzo a un branco di pesci blu elettrico che avevano cambiato completamente il colore del contesto, bellissimo. Però un altro mare che mi ha lasciata senza parole l'ho trovato anche in Belize, quindi quando sono stata a Cayo Colker, che è un'isola del Belize, ho avuto modo di fare delle escursioni molto vicine alle Blue Hole, e anche in quel caso ho nuotato con le tartarughe, ho nuotato in mezzo a degli squali di medie dimensioni. Anche in quel caso lì il mare era di un colore pazzesco. Un mare che però mi sento di consigliare, perché questi sono posti più conosciuti, un posto meno conosciuto è in Mozambico, le isole Kirimbas, che si trovano quindi nell'Oceano Indiano. Anche qui un mare pazzesco, ma soprattutto un ambiente completamente incontaminato, lontano dalle solite rotte turistiche, tanto è vero che, se ti ricordi, su quest'isola noi ci eravamo accampati con le tende, ma non c'era nessuna struttura ricettiva, non c'era luce elettrica, non c'era acqua, per cui ci lavavamo anche coi secchi. Ne è arrivata un'altra di domanda, Elena, scusami, però? No, dicevo, però insomma un posto che merita, anche se le strutture non ci sono, magari per chi ama il mare bellissimo, a questo posto non aveva ancora pensato. Questa domanda dice: c'è una sfida con te stessa che senti di aver superato viaggiando o in un viaggio in particolare? Una sfida con me stessa? È bella anche questa domanda. Me ne vengono in mente due, così su due piedi, e tutte e due riguardano esperienze di trekking, perché sì, a me piace camminare, però non sono così esperta di montagna come magari possono essere altre persone, per cui per me, per esempio, arrivare in cima alla Rainbow Mountain, che è la montagna Vinicunca in Perù, la montagna quella tutta colorata, la montagna dei sette colori. Lì sono partita dai 4200 metri, e sono arrivata in vetta, che sono 5100 metri. È stato faticosissimo. Ricordo proprio negli ultimi metri che sentivo le gambe, anche perché lì c'è un discorso chiaramente di altitudine che rende molto molto faticosa la camminata, quindi per una persona non fortemente allenata, però volevo arrivare in cima a tutti i costi, quindi ricordo ancora gli ultimi metri, non guardavo la vetta perché sembrava lontanissima, ma quando sono arrivata in cima chiaramente è stata una soddisfazione enorme. Elena, poi distrutta. Allora, mi è arrivata questa domanda che è bellissima, già come ti viene posta. Digli, se tu dovresti fare un viaggio, ti piacerebbe tanto il mare, dove ti consiglierebbe di andare? Un viaggio di piacere comunque, non deve essere un viaggio... Ma è un po' è quello che stavo dicendo. Infatti, prima, sicuramente se la sono persa la risposta. Sicuramente ci sono mete che sono più facilmente o che possono venire più immediatamente in testa. Tanto per cominciare, non dimentichiamo l'Italia, perché poi io parlo sempre di viaggi intorno al mondo, ma in Italia abbiamo un mare spettacolare. particolare, per cui alla fine uno dei mari più belli che io abbia visto in realtà sta in Puglia. Però se dobbiamo uscire dalle nostre Puglie, Sicilia, Sardegna, che Calabria, sono comunque... Scusami, mamma mia, come ho fatto a non citare la Calabria proprio al telefono con te? Perdonami Beppe, Calabria assolutamente no. Noi abbiamo dei mari già meravigliosi di per sé, però ovviamente ci sono posti che non sorprende che siano così famosi perché la loro bellezza effettiva, come Maldive, Polinesia, tutta la parte del Mar dei Caraibi, quindi Cuba, Santo Domingo. Io avevo citato il Belize e il Messico proprio perché essendo entrambi vicini alle Blue Wall, quello che si può vedere facendo snorkeling è veramente meraviglioso. Però poi suggerivo questo posto di mare che secondo me è sconosciuto ai più, che sono le isole Quirimbas in Mozambico, anche Isla de Mozambico, cioè tutta quella zona nord del Mozambico ha queste isole in un mare cristallino che vale veramente la pena. Quindi io suggerirei, per gli amanti del mare trasparente, suggerirei quella meta lì. E poi un'altra domanda, Elena, qual è la popolazione più accogliente in base ai viaggi che hai fatto? La popolazione più... beh, guarda, anche questo un po' lo dicevo, forse l'ho un po' anticipato con le altre mie risposte, però per me la popolazione più accogliente in assoluto è stata quella iraniana. Io non mi aspettavo un calore simile, una voglia di un'accoglienza tale, una voglia di confronto, ma da parte di chiunque si incontrasse per strada. Prima ho citato l'episodio del taxista, ma tu ti ricorderai anche l'episodio che avevo raccontato nel negozio di pane, quando il pane era finito, ma tutti quanti dentro quel negozio, un negozio pieno di persone, hanno detto al fornaio: eh no, loro sono ospiti, qua non torneranno mai più, rinunciamo noi alla nostra dose di pane, ma devi farlo assaggiare a loro. Quindi una cosa veramente incredibile, invece di accalcarsi a prendere l'ultima pagnotta, hanno deciso di cederla a noi per farci assaggiare il loro pane. Molto calorosi, anche quello che mi ha stupito, molto molto aperti di mentalità. Perché questo purtroppo tante persone danno per scontato che la popolazione iraniana sia poi il riflesso di quello che è il loro governo, cosa che non è assolutamente così. È una popolazione molto aperta di mentalità, con molta voglia di libertà, idee progressiste e con un livello di istruzione molto molto alto. Devo dire che poi forse in seconda posizione metto i nepalesi, perché anche in Nepal ho trovato un'accoglienza bellissima, una popolazione molto calorosa. Quindi quando ho fatto anche quest'altra, che forse ci stava anche nella risposta delle sfide, questo trekking sull'Himalaya, ho trovato veramente tante persone, anche durante per esempio la camminata, durante il trekking, disposte a dare una mano, a porgerti dell'acqua, qualunque sostentamento uno di cui uno avesse bisogno. Una mano per Elena era quel trekking. Sì, una mano per Elena, non solo, una mano per tutti gli escursionisti che erano lì e che erano alquanto affaticati, ma mai come gli Sherpa, che intanto si portavano tutti i bagagli, perché poi sappiamo che i veri scalatori e quelli che veramente compiono delle imprese pazzesche a livello di trekking sono gli Sherpa. Però insomma, queste due sono le popolazioni che ho più nel cuore. Io invece, Elena, ti devo dire che ci siamo mangiati un'ora così, amble, senza né dire così, né fare. È, sì. È volata. Infatti. Vabbè, ma quando parlo di viaggi proprio il tempo vola. E poi insomma, è una bella parentesi in questa situazione, riuscire a, non lo so, ripensare comunque a quei viaggi con la speranza di tornare a farli prestissimo. Sì, no, li faremo tutti prestissimo, ritorneremo presto a viaggiare. Elena, che dire, grazie, ci sentiamo prestissimo. Va bene, grazie a te Beppe, grazie a tutti quelli che ci hanno mandato delle domande e un bacio a tutti. Grazie anche alla tua amica che ci ha mandato la domanda, che come si chiamava? Gaia, salutiamo Gaia. Anche tanto Gaia. Gaia, grazie per la domanda impossibile, per avermi fatto pronunciare quel paese impossibile. Sì, più che altro impossibile per te nominare Two Birders. Grazie Elena, ciao e alla prossima. Ciao Beppe, ciao a tutti.